ancora? Ehi! Ebbe! Pronto! Ancora c'è l'antenna, mi. Io giusto poc'anzi ho acceso e siccome non sto entrando, ho acceso, ho provato a premere la portante per sentire, per vedere se c'era l'antenna ancora. Qua sale tutto tranquillo, quindi ho fatto un bel venticello ieri, l'anima al venticello. Adesso c'è ancora un po' di vento residuo. Tutto a posto, sì, di antenna. Tutto a posto, tutto a posto. Tutto a posto. Sto guardando tutto, la punta è a posto. Ah, antenna, è a posto. Quant'antenna di 50 euro a me? Se ne sono troncati, se c'è molto più cara. Eia. Sì, anche questa vedo che, siccome io non ho guardato, non ho guardato visivamente se era ancora in piedi. Sono sceso verso giù e da giù non si vede. Ok, vabbè, novità tanto, novità, frequenza, nulla. La sera stiamo entrando sempre, come stiamo sempre entrando. E tu? Che fai? Un po' bighellonando, un po' a casa, un po' di computer, un po' di molta televisione, perché io sono un po' appassionato di film, serie TV, roba del genere, insomma. Quando ce n'è mi dedico a quello, di notte non sto più entrando. Una volta con Pomponio facevamo anche tardi, però poi se non c'è l'argomento un po' te ne scende la 27, dai. Ma guarda, io come ti posso dire, io sto entrando la sera, tranquillo. Ma a me la televisione proprio non piace, la guardo pochissimo, me ne sono alle balle anni fa. No, ma poi io non ho tempo io di guardare a guardare TV, capito? È per quello che non riesco. Ma diciamo che la TV manda roba anche, cioè io ho roba di videocassette, versato da me, salvo rari casi, però non ne guardo roba tipo De Filippi, fa quella roba lì, e per me è tabù. Isola dei Famosi, Grandi Fratelli, no? Assolutamente. E poi vabbè, mi sto dando un po' la musica, sto ripassando anche vecchia roba, CDC, roba che non sentivo da 30 anni, tanto, certo il mio impianto è cibo da mensa, roba commerciale, terra a terra, però l'importante è ascoltare musica. Anche il mio è commerciale, io l'ho pagato 10 euro, l'ho pagato. Ma 10 euro scherzando, 10 euro davvero? Secondo te? No, vabbè, perché uno dice 10 euro, può essere 100, 150, 200, nel senso ho pagato poco, mi hanno bene, va bene, l'antenna c'è ancora, lasciamola sul tetto e adesso vabbè proseguo qua. E oggi oggi è sabato, no, non lavori sabato sera? No, sabato sera non lavoro. E fai 10 euro, mettici un bel po' di soldi sopra, non è roba a 200 euro, non ti preoccupare. Dei buoni di no, un bel dei buoni. Quando arriviamo a 700 euro va quasi bene, dai. Ah, era in senso così, allora diciamo ci aggiungi due zeri. Vabbè, ci aggiungi uno zero più il 7. Eia. No, no, il mio è per roba da 150 euro, roba commerciale, stereo mini, non mini. Due casse, punto, non è che. Poi qua in condominio cosa metto? Non possiamo alzare il volume. Salto più di tanto, magari mi bussano alla porta, non si può fare con la roba lì. E quindi mi devo accontentare. Io mi sono sempre accontentato, non ho mai avuto roba stereo di alta fedeltà, perché i prezzi erano troppo su, io non volevo spendere più di tanto proprio per l'audio. Casomai me l'ascolto in cuffie, se voglio sentire bene tutto. Ah no, non sono dello stesso parere, no, assolutamente. miseria, se no la musica non mi piace. Ti indichi sta cosa pratica, a me no. No. Sulla musica sono severo. Ce ne ho qualcuno di casa, messo così, l'avevo pagato 500 euro. È un Bose, si sente la musica. Devo ascoltare musica così, uso quello, ma più di dieci anni fa. No. Non è roba fatta per me, non mi piace a me. Assolutamente. Manco per idea. Lo so, però io poi se mi sbilancio troppo per una cosa non me ne posso permettere altro. Queste robassoni, sì, suona normale la musica, ma niente di che, non sono né Bose né roba insomma ad alto livello, dai. Giradischi purtroppo non ne ho più, avevo distrutto tutto, perché se no un giradischi li avrei aggiunto. Solo che i dischi, mamma mia, delicati, polvere, poi io sono, la mia camera è un macello, sono molto disordinato e le cose non sempre le tengo bene. Quando c'è troppa roba è un caos. Ok, bene Anton. Dopo se mi entra qualcuno, entra a salutare più tardi, tipo dopo mangiato. Se mi viene bene, dai, se non esco. Tanto dove vuoi andare? Qua vedo che dopo una certa ora mortorio, nessuno vuole più uscire. Caso strano, dopo che chiudono i bar, vabbè, non ti puoi pigliare manco un caffè, va a gala. E allora me lo piglio a casa se non esco. Cappa, vedi, mi intendi tutto canto una batumiera, che mamma mia. Uiuia. Se ti sta una di questi giorni ce lo prendiamo insieme, ti fa piacere. Perché no? Quando capita. Cosa ti voglio dire? A proposito delle zone, sì, zona gialla, zona arancione, Bari un semaforo là, la Sardegna. Ti confondono anche con questo barriere delle zone. Magari ti fai un giro, tipo come sempre dico io a Provatore, se scopri che devi essere zona arancione, non puoi cambiare comune e magari ti fanno pure la multa. Poi dipende, ogni tanto cambiano, quindi questa storia dei comuni non mi è chiara, comunque per evitare sanzioni è meglio non calcare la mano, capito? Scappa. Ma la puoi vedere la mia versione? Ma a me ti sto pigliando il baruguru. Sì, per i vaccini soprattutto. Naturalmente in TV non ne parlano, però da altre fonti arrivano, poi bisogna vedere se sono autorevoli queste fonti, di gente, anziani che crepano nelle case di riposo per il vaccino, reazioni avverse al vaccino, è come se fosse una fase beta, cioè, stanno usando come cavia, hanno avuto fretta di produrlo, è una cosa un po' diversa dalle altre, non è il solito vaccino come può essere quello dell'influenza, no? Anti-influenzale. E stanno osservando, capito? Ogni tanto qualcuno ci lascia le penne, ogni tanto qualcuno c'è una mezza pareggi facciale che o perde l'uso di una gamba, di un braccio, ma è accettabile a rischio secondo loro. Certo, accettabile a patto di non essere quello che si becca gli accidenti o che muore peggio. Ma per carità, secondo me i nonghi a qualcuno li prude il culo, secondo me qua è perché c'è più di, come si dice, si tira da una parte e quindi gli fanno rompere le scatole dall'altra. Cioè è tutto un ciaramento, strano che nella zona di Napoli, le cose sono diverse. Per carità, lasciamo perdere che è meglio, va. Cioè c'è una metà, secondo me è problema pure di battiti, di roba del genere, li sto pigliando in giro. Naturalmente non è obbligatorio, però se sei dipendente tipo statale o di qualche azienda, soprattutto statale, cioè alla fine o lo fai come il tampone, non è obbligatorio, però se non lo fai ci saranno ripercussioni in ambito lavorativo. e quindi è un ricatto, è come se fosse obbligatorio, lo stesso il vaccino. Io avrei voluto fare invece il controllo sierologico più che il tampone per capire se sono già venuto a contatto col virus e non mi ha fatto niente. Però mi devo documentare su se lo fanno qua prima di tutto, chi lo fa, quanto costa, perché non è a gratis, no. Fa carità. Ok, adesso dobbiamo lasciare, dobbiamo entrare in duccia. Ci sentiamo dopo se coincide. Un attimino entrare in duccia e fare qualcosa. Sì, Antonio, ci mancherebbe, dai, buona doccia, un tutto, io ti ho detto se posso tardi entro a salutare, se non sto facendo altro, ok, ci sentiamo, ciao, buona serata. Okay. Ciao. Sei zero di segnale. Lo so che c'è un zero di segnale. Sto facendo una prova. Ma col portatile, non è che ti si è... Credo fossi senza antenna, mi. Che non ti un falso contatto, roba del genere. Poi, eri sceso un bel, mi eri tipo Santiago 5. Qua, vabbè, l'apparecchio è acceso, però sto facendo roba musicale. Ok, dai, a dopo. No, ero col portatile, ero. Stavo provando uno e l'altro, stavo guardando come esco. Come va lì? Perché questo qui l'ho ritirato da poco. Ho fatto uno scambio, quello là è andato male, e allora mi sono preso questo. Come va la Marabà? Abbastanza bene. La modulazione dopo tutto è abbastanza fedele, ma perché l'altro si è rovinato? Il processore è partito nell'altro baracchino. No, ma allora posso prendere il baracchino, mi sono preso la 747, capito? Anzi, ma vedo che va una cannonata, non scalda nemmeno sta cosa. Magari a lungo andare scalda. Quando fai botta risposta inizi a scaldare. Io gli avevo appoggiato una ventolina con dell'elastico per non fissarla, perché è roba fissa, non voglio bene bucare niente. Sì, esce discretamente bene il 747 dentro, poi se è del nuovo tipo, del tipo più recente, credo che sia un RMI lì dentro. Sì, l'ultima serie, quello che c'ha il coso grigio dietro, anche quello là è per la penultima serie, ma questa è l'ultima serie, l'ultimo che è uscito. Ehi, già da molto mi sono remettati, e il colore, mannaggia, mi sta, mi droppa la gola, e il colore è lineare? Tutto grigio. Grigio, non nero. ma un grigio tipo antracite tra il grigio e il nero. Papà, mi sto a capo la radio bucio. Vabbè. Ah, io non ti faccio. Adesso lo mando. Te lo mando. Lo faccio vedere. Ah no, c'hai ragione, tu stai parlando del 747, io sto pensando sempre al 203. Perché quello che avevo io era blu elettrico e pulsanti rossi, molto carino. Adesso l'hanno fatto tutto nero, l'ultimissima uscita versione, che poi cambia il colore blu. Tutto nero, i tasti celesti. Piuttosto il telefono indietro. Non ce l'ho. Non l'avrò lasciato in macchina, no. Ma che sei tu in fotografia? Quello? No, quello è il dottor House. Ma non pensavo che eri tu, no. Capo, a me non mi scalda nulla, nulla, nulla, nulla questo 747. È buono però, L'altro già scalda, quella bestia, ma questo non scalda. Scalda diciamo dopo un bel po' che lo usi, cioè se fai di ex, se fai botta risposta con una persona sola, dopo un po' inizia a scaldare anche tanto, dipende quanto, che faccia di fai. E quindi aspetta il controllo del telefono, vediamo se in casa o se in macchina, se no mi tocca uscire a prenderlo. Cappa, ma se hai cosa, come si dice, devo mettere a posto questi cavolo di fili, cavolo, mamma mia, via, fascetta, gà. L'ho trovato, allora, aspetta che apro. Ah, c'è ragione, insomma, va a far Napoli, tipo colore alluminio, ingrandiamo, sì. Sai perché praticamente gli RMI li verniciano tra virgolette, credo che sia alluminio anodizzato, e quindi prima era di colore blu elettrico, adesso lo fanno nero. Capa, cioè non ce n'è per nessuno, non ce n'è, cavolo, ma io l'ho usato anche in passato, è uno dei migliori che io abbia mai utilizzato come a livello di amplificatore. Gli altri no, non mi hanno dato, cioè gli altri si vanno forte e coso, però non era mate si gozzano. Come non mi scalda niente, la verità, l'ho provato anche a fare passaggi lunghi e cosa, no, non mi scalda, forse perché non lo so. E poi meno, più in basso lo piloti e meno watt da, meno scalda, giustamente. Cava. Anche le stazionarie contano molto, Sì, sì, magari con lineare un po' più di attenzione, soprattutto dalla macchina. Da casa ho visto che le stazionarie sono ragionevoli, dopo tutto. Alla faccia di quegli strumentini Proxel e quella roba lì, che era un po' troppo, segnava molte più stazioni di quanto ce n'erano. Beh, scommettere che pure qua è così, sicuramente manco si muove l'ago se lo metto qua. Sì, io guarda, sta, vedo oscillare appena la lancetta in base al vento che viene, come curva lo stilo, il mio stilo. E cosa ti volevo dire degli strumenti di prima? Allora, il Proxel mi segnava più stazionarie del dovuto e anche più watt del dovuto. Lo ZG al contrario, ricordavo male io, lo ZG mi segnava meno watt del dovuto e molte meno stazionarie del dovuto, capito? Chissà che era più giusto, ci vuole uno strumento professionale per fare queste misurazioni, come nulla e va. Io più là me lo voglio prendere, una cosa seria, o come il tuo. Che poi una volta che sei stazionaria e a casa, a meno che non succeda qualcosa, non si misurano tutti i giorni, capito? Però io devo tararmi, devo verificare 3 antenne da macchina, aspetta, sono una. 2, 3, no no, 4 antenne veicolari CB, mi devo controllare e stazionare tutte e se è necessario ritararle, non che si usino, però voglio che siano all'occorrenza già tarate. Conta che le mie antenne veicolari non hanno mai preso pioggia, mai, perché se iniziava a piovere io accostavo, toglievo tutto, non li lasciavo beccare manco pioggia, sono praticamente nuove. Vabbè, però non si dice, non le fa niente, no, cioè, no, se prende pioggia. Vabbè, adesso un po' fissato, no? Un po' fissato, ho detto. Aspetta, cosa vuoi dire? Più? Aspetta, un po' fissato di non farli prendere pioggia, ma non li fa niente, sono fatti per l'acqua. Sì, in teoria sì, però sai cos'è? Che in macchina praticamente prima lo usavo di più perché non avevo antenna a casa, no? Poi quando ho piazzato l'antenna a casa, in macchina ben poco l'ho usato, il baraccocco. Però sai cos'è? In barba ai gommini che ci mettono, le antenne veicolari, entra l'acqua, entra e finisce direttamente nella bobina. Possono mettere i gommini che vuoi alla base dello stilo, ma poi rischi che ti trovi la bobina tutta verde rame, perché io, vabbè, su internet ho visto gente che ce l'aveva in macchina, in camion, no? Poi ha cominciato a funzionargli male l'antenna veicolare, allora l'hanno smontata e hanno visto che era entrata acqua ed era tutto verde rame, una bucaria. Io ne ho avuto una dell'Assirio. L'ho lasciata per tanti anni fuori, che allora modulavo con quelle antenne, capito, da macchina. Non l'ho fatto mai nulla. Sì, dipende dall'antenna, dall'esemplare, magari in qualcuno il gommino balla di più, non è tenuta stagna, capito, qualcosa può passare. Comunque vabbè, è tutta roba piccola l'antenna, a parte una è 1,5 m, 1,60 esattamente. Tutta magnetica e poi io non... Cioè alla fine non... Nonostante sia vecchia la macchina a bucare, no, non se ne parla. Costa più andare a farla bucare, rimettere tutta la tappezzeria, vale più della macchina. Capito, l'intervento stesso per bucare il tetto e rimettere tutto a posto e... supera il valore della macchina che c'ha 20 anni. Lo so. Ah, non è mai cambiata, che macchina c'hai? L'Opel Agila, che poi non è mia ma è di mamma. Papà. Vabbè, però già va. Ma cos'è una macchina, cioè cosa c'è, il modello base o il modello... Super base. Tanto Agila mi, sempre uguali sono, bene o male. Modelli vecchi. Clappa, già va bene. Ma quella tre cilindri, no? Oddio, non mi ricordo se il motore sia 3 o 4 cilindri, non mi ricordo nemmeno se è 1000 o 1200, lo sai, figurati quanto ne uso, quanto ne tratto di macchina. C'è scritto sul libretto, quando me ne ricordo gli do un'occhiata, perché mi pare che la 1000 sia 3 cilindri, può essere, la 1200 sia 4 cilindri. Non so dove sapere tu, com'è. Sarà, mi pare che è così. Non me lo ricordo adesso. Io non ho tratto nulla di macchina. No, vabbè, faccio i soliti rabocchi, i soliti cambiare lampadine, però se c'è roba da cambio olio, candele, quello lo faccio fare al meccanico. Anche perché mentre nella Fiat 1 le candele ce l'avevi di fronte, toglievi la pipetta, svitavi, lì le candele sono difficili da raggiungere, quindi piuttosto che sporcarmi di grasso, di fare danno, eccetera, lo fa il meccanico. Io li posso rabboccare l'olio, tutti i liquidi, cambiare lampadine se necessario, anteriori, posteriori, quelle cose, manutenzione ordinaria, capito? Non lo so, non è che la portate di vicino? No, qua vicino non... di solito andavo da Cosa, come si chiama? Bodale, era produttore, il meccanico Alfa Romeo. Come si chiama? Porca miseria, manco il nome mi ricordo. finisce con la U, mi pare il cognome, può essere Ruzzetto, Ruzzetto, una cosa vedete, comunque è bravo, è bravo. Si può pagare, ma è scrupoloso. Vabbè, è caro. D'altronde, che poi io gliela porto solo quando c'è un'urgenza, capito? Oppure dico già che c'è, cambio olio, candele, filtro olio, filtro aria, solite cose. Invece nella 1, io ho avuto il vecchio modello, mamma aveva il modello Fire, lì potevi fare quasi tutto. Cioè con la 1 vecchia io all'epoca, lì che facevo tutto io, cambio olio, cambio filtro, candele, l'importante è non aprire il motore, capito? Quello va bene, però lì facevo tutto io, altro che meccanico era. Però in questa mi viene più male, poi non, certi lavori in garage non li posso più fare, nella piazzola dei garage, hanno fatto un casino, hanno creato una pendenza, tutto era rovinato. Scappa. Vabbè, come si dice? Comunque già, adesso fare lo stesso, no, io alla Fiat punto, la ribabbo il cambiello glielo faccio io, glielo faccio, è multijet, per il posto che ci goce, la macchina non va mai problemi, mi, perché so cosa ci sto mettendo. Via. All'epoca c'avevo un po' di tutto, la chiave giù, la chiave per il tappo olio sotto, tutto, la chiave del filtro, poi cambiano macchina, adesso non viene bene in questa, dai. E poi non fa più a fare certe cose che faceva una volta. Nella piazzola dei garage adesso ti fanno storie per ogni cosa, vaffanculo, ti fanno osservazione per ogni cosa, lasciamo perdere. Una cosa, non c'è casa d'uglia. Quella era condominiale, poi vogliono il passaggio libero per i garage, capito? Mentre una volta nei garage non c'entrava nessuno, erano usati tipo magazzini, lì è piccola la piazzola, capito? Sono 1, 2, 3, 4 garage, non fa a piazzarli e piazzarsi lì, cambiare olio con la roba lì, fare altro, insomma. Ma prima era tutto diverso, adesso stanno cominciando a rompere le palle per tutto, mianto. Farvi dire i padroni, là. Per non dire che certe volte lì c'erano delle piantine, ci buttavano l'olio vecchio lì, nelle piantine lì, al bordo del piazzale, tutta erbaccia, no? Una volta l'avrò fatto, poi mi sentivo in colpa, allora l'ho portato al centro di stoccaggio. E se lo fai adesso, guai. Non andava a fare così. Lo butti da un amico d'uglio, in un'officina e se lo butta. Sì, ma infatti eravamo giovani e ci fumava lo gabbo lì. Però, per esempio, batterie mai lasciate in giro, mai buttate nelle campagne. Lo sai che io a terra, quando sono fuori, a terra non butto nemmeno la buccia della caramella, niente. Mi dà fastidio a me, cioè io me la metto in tasca, la buccia me la butto a casa. Invece vedo mascherine buttate, poi vicino ai marchi, tutto pieno di mascherine buttate a terra. Ma è uno schifo, ma quando mai si fa così? Batterie abbandonate in ogni dove, anche da Auchan, cioè mollavano le batterie nel parcheggio di sotto addirittura, se ce la cambiavano al momento. Per esempio lavatrici, televisori, noi sempre l'abbiamo portata al centro di, come si chiama, l'autoparco. Pagavamo la motoretta, prima ancora pagavamo la motoretta, se la portava lui la portava Osilo, se la voleva portare, noi pagavamo per smaltirla. Si pagava anche il bollettino delle poste, ti ricordi? Oppure glielo davi al motocarrista, magari non ne pagava e ce la buttava in campagna, chi lo sa, quello non lo so. Invece conoscevo gente che se ne fregava, ti parlo di 30 anni fa, se ne è sbattuta sempre le palle, ha sempre buttato le batterie in campagna, i televisori, le lavatrici, per non pagare 20.000 lire o 30.000 lire di motocarro, capito? Adesso invece vabbè, in un certo senso hanno migliorato le cose, se li beccano li multano forte, capito? Perché sennò diventa tutto un mondezzaio. Adesso non sai come funziona, c'è il numero verde, si chiama, li metti a tale ora, lo porti giù, li metti il numero, li metti, capito? Metti il numero, vengono, se la ritirano, e tu non fai manco fatica. Dice tale ora, via, dice sì, può appoggiarlo dalla sera, tu glielo appoggi e a posto. Sì, quello non l'ho mai fatto, Anto. Lo sai, ci caricavamo tutto in macchina, o sull'imperiale, che la macchina mia già c'ha l'imperiale, come lo puoi chiamare, no? Oppure dentro, e andavamo all'autoparco noi. No, prima che qualcuno si lamenti che c'è questa roba in strada, no? E qua c'è gente anche così, no? Che dice che sotto la finestra si trova roba. Dice, se poi non viene a ritirarla rimane anche il giorno dopo, ma andate a cagare tutto. E allora, per evitare polemiche, vado all'autoparco, tanto mi faccio il Ponte Nuovo e sono arrivato. È un passo. E poi non è tutta questa fatica, no, buttare televisori, sai come li abbiamo buttati, il Seleco, che funzionava ancora, quelli a tubo catodico pesanti, buttare il MIVA, lo sai, tutto caricato noi e buttato noi di persona. Anni fa di questa roba, no, adesso non lo puoi fare, se te lo autorizzano loro col numero e tutto, a tale ora io sto buttando questa roba, mi tribuno la faccia in culo, no, non puoi manco parlare, deve stare solo zitto. A me, guardi, c'ho il foglio, come io vengono a ritirarlo, quindi lei non può neanche aprire la bocca, nessuno può aprire la bocca. Poi voi va sempre di bauscia, voi va. Sì, che poi lo fanno, lo dicono più che altro per farti rimanere male, così, lo dicono tanto per dire alla loro, come per andare nel baracchino, avevano detto all'assemblea, ah, io vedo male la TV, anch'io, questo non era vero, nessuno si è mai lamentato del palazzo. L'hanno detto giusto per fare i giabidoni, che poi se ne sono accorti, tu conta, la prima antenna del baracchino l'ho messa nel 92, no? E nel 2000, e quando è che l'ho piazzata? Nel 2014, la 5 tardi. Cioè, si è capito, no? Si sono accorti dopo più di 20 anni che avevo l'antenna nel baracchino, e questi sono fumati. Per carità, che gente, guarda. Allora, cosa l'aveva detto? Vai, passami in culo. Du. Allora, qua non ha mai detto niente nessuno. Vabbè, che no, qui la maggior parte è tutti Mao Mao, so. Quindi non è che non ne ha tutti nulla. Basta baida. Io mai che si programmi strane, che baida niente, sono contente. Sì, ma poi qua vogliono fare, poi non fanno nulla. È 20 anni. 20 anni che stanno parlando della messa a terra e qua non ce n'è messa a terra, qua non c'è una minchia, qua succede qualcosa, salta il palazzo direttamente, capito? La messa a terra di tutto l'impianto elettrico, non so come sia, non mi pronuncio. 20 anni che ne parlano, facciamo, poi magari c'è il solito che non vuol pagare il condominio, che è da una vita che non ne paga, è pure un tipo ricco, è uno che c'ha un hotel turistico dalle parti tipo Costa Smeralda, lui ritiene di non dover pagare il condominio, così, capito? E quindi si rallenta tutto, le cose saltano, le cassette della posta, o se c'è 15 anni che le devono cambiare, approvano e i soldi li avevano già dati, peraltro, fino che non si vede nulla, né cassette né nulla. Ed è una vita che devono mettere i contattori dell'acqua fuori, e invece sono ancora dentro. Anche perché fuori qua noi abbiamo il marmo, è marmo trachita, non so cosa sia, ma cosa c'è? Devi spaccare tutto, è un casino. Ah, chi c'è un marazzo di menti che abita in Chivino, ma Tudoglio, e va un mega albergo e cosa? Ma chi non si ammazza, Ghizzo? No, ma non abita qui nemmeno, cioè la casa ci abitava, adesso non abita più, non mi ricordo il nome, sì, sarebbe titolare o gestore, ma probabilmente titolare, proprietari di un certo villaggio a vacanza, non so dove, sempre verso Costa Smeralda o simile, boh. Sì, di quelli che non so perché non ritiene di dover pagare. Se lo ti dico, però la casa poi l'ha affittata, quindi sono studenti, gente mai vista qua in via Vai, è diventato una troia sto portone, la troia di tutti. Io so come funziona già, però si è affittato la casa, non paga manco il condominio, pure l'ascensore, boh, così è. Ma cosa vuoi dire? Poi c'era invece un ex condomino che non c'è più, che voleva, allora qui ascensore non ce n'è, no? Sono, mi pare, c'è il rialzato più altri tre piani, non voleva che praticamente devastare mezzo palazzo, ricostruire mezzo palazzo per mettere l'ascensore, perché lui voleva l'ascensore che era l'ultimo piano, ma qua non è materialmente fattibile, non c'è lo spazio, perché dopo il muro c'è l'abitazione, non puoi materialmente metterlo. E in condominio ogni tanto hanno idee bizzarre, eccetera. Io manco più ci vado alle assemblee, tanto me. Alla fine a decidere sono sempre i soliti tre o quattro che sono, caso strano, sempre d'accordo su tutto. E quindi è inutile, raggiungono la maggioranza, quindi è inutile anche discuterne delle cose, capito? Di macchie di candela, meno male che c'è, cioè, la terrazza di tutti, così è da te, ma qua te l'hai fatta buoni l'antenna sopra. No Anto, allora il terrazzo di questo palazzo è diviso in due parti ed è privato, è un luogo privato, è stato comprato da chi abitava nel palazzo, uno di un condomino e uno dell'altro. Però anche se il terrazzo è privato, il diritto di installazione di antenne permane, cioè il passaggio c'è dalle scale, si capisce, qua all'ultimo piano c'è il gabbiotto, esce al gabbiotto. Diciamo che io ho avuto anche un po' di fortuna, perché l'antenna, il palo mio è piazzato sul gabbiotto che è condominiale. Cioè rientra nelle cose condominiali, e mi diceva ma non c'è per il cavo, non c'è servizio di passaggio, e ci ha detto no c'è la servizio di passaggio, è così, dai, cappa. Ma cumare, dai, meno male che non ti hanno rotto le scatole, per carità, che gente va. No vabbè, una volta un vecchio inquilino del primo piano voleva male la TV, no? Questo parlo di 20 anni fa, voleva male la TV. Conta che io l'avevo piazzata nel 92, ma nel 94 già non entravo quasi più. Ha chiamato un tecnico, chiamiamolo, vabbè, tale. Io ti dico solo che avevo tolto il cavo di mezzo in terrazza, l'avevo proprio tagliato dalla base del palo e portato giù, quindi c'era l'antenna senza più il cavo. Arriva il tecnico, l'antennista, vede l'antenna nel baracchino e dice è l'antenna che disturba. E gli ho detto al tipo del palazzo, ma guardi, venga con me, lo vede che non c'è manco più cavo. Il cavo l'ho già tagliato, ma tassato e portato giù. E questo è il figlio di Prospero, visto che è un antennista che se ne intende. Un macco di catena, cosa si intende? Un macco di catena, ma capai dare cosa si intende? Di far cagare, di chi si intende? Cosa si dovrebbe fare? Cagliarsi la muda e boh, manco di catena, e fare il suo lavoro e controllare l'antenna se stava andando male. No, ma infatti, secondo me ci vanno a parare, molti di questi che fanno impianti TV, cioè si limitano a dire, vedono un'antenna di ricerca trasmettente, che poi sia 27, ora è naturale, allora è quella che disturba, non è che dicono magari l'impianto disco che non va bene, sì, danno a priori la colpa alle antenne di ricetrasmittente. E ripeto, il cavo era già tagliato, l'antenna era stata l'abbandono, rimasta lì per altri 20 anni, infatti l'ho trovata, lo stilo c'era, non c'era, il radiale mancava. E invece nel palazzo di fronte credo che questo signore abbia cambiato l'antenna perché vedeva male in effetti, però era l'antenna che era vecchia di 30 anni, no? E qui lo dico, qui lo nego, forse anche lì credo che abbia tentato il tecnico di dire è il baracchino che disturba, perché capito, baracchino uguale disturbi, no, non è che analizzano il segnale con come fa l'escopost con i mezzi adatti, no, oscilloscopi, no, antenna uguale disturbi, baracchino uguale disturbi, l'equazione fanno. L'equazione era in capo, vedo, cioè, no, veramente, ma ho avuto problemi anche io, me, cioè, subito la tua antenna disturba, cioè, magari non usandone più per anni, capito? Sono andati da babbo una volta, la tua antenna, ma guarda che io l'antenna non la uso per un bel po' di anni, ma cosa di gente, che dice, no? No, veramente, la gente proprio a venire meno che a rompermi le balle, dica ma molto ci vuoi e fatela riparare l'antenna, gatto ti ti cuduioso, ma proprio così, cioè non me ne affitti nulla, vai chiamami le scopote, metti il buono e burro la faccia in culo, vai chiamami chi vuoi, non so neanche, guarda, non ci sono neanche più a perdere tempo, non ci so, cioè perché intanto prima verifica che te la faccio, lo so anche qua io, c'è un'antenna che non mi funziona il televisore, ma mica disturba la mia, è un'antenna di merda su che non funziona, non serve a niente, no, non vale a niente, cioè ma io lo so che è così, cosa cioè, le antenne anche, chi monta gli antenne del televisore non è solo a pigliare di là e a fare così così in brencio, è anche mettere la roba buona e non rompere le scatole agli altri. E così è stato per, non dico tutti i CB, ma quasi. E addirittura Doppio Room l'avevano quasi diffamato con volantinaggio, con lettere anonime, capito? Che era la fonte di tutti i disturbi della zona, roba del genere, roba da matti. E anche qua un pochino hanno tentato di farlo, qualcosa già girata come voce. Ma come vedi, controlli non ne sono mai venuti, peraltro io tengo un filtro passo a basso per eccesso di prudenza, perché io non sono tenuto nemmeno a metterlo su filtro, sempre dell'RMI, te l'hai fatto anche bene, no? Lo lascio per, così, per eccesso di prudenza, anche per ridurre la sezione del cavo, in modo che al baracchino gli arriva il cavo RG58 che è più flessibile, più morbido, capito? Ok Antonio, io per adesso stacco, stavo facendo roba, devo salvare su hard disk coso, tutta la roba del cellulare, c'avevo il cellulare al collasso, c'avevo la memoria SD piena, ho dovuto salvare tutti i documenti, tutti i programmi scaricati, pagine internet, foto fatte da me, video, tutto in blocco scaricato, anzi devo finire di ultimare, capito? E quindi quello lì stiamo facendo, 31 giga di roba circa, gigabyte, non megabyte. Oh cavolo, questi cavoli di alimentatori qua funziona veramente bene. Da un po' che lo sto usando, ne ho provato anche di un altro tipo, ne ho comprato anche di un altro tipo di marca, ma qua vaga una cannonata. Sì, io ero indeciso se prenderlo uno di quegli alimentatori, però da 50 l'avrei voluto, quello che ha Luca Maricone, Luca Perivella. Però tenerlo di scorta, cioè non usarlo sempre, tenerlo di scorta se necessario, se serve, capito? Mi fido non troppo di quelli. In origine sono nati per alimentare strisce LED o roba del genere e mi chiedo quanto siano filtrati per roba radio. Boh, vabbè, comunque sembra che vadano bene, anche con linea retto, non sento niente di strano, di longo. scatta, no, guarda, tra l'altro gli ho alzato appena appena di più la potenza col trimmer, ma sai cos'è il bello? Che se c'hai un mobile che lo metti lì sotto e non lo vedi nemmeno, non ce li hai in mezzo alle io, c'è solo che la corrente che ti arriva e basta, e vedi pure l'alimentatore rimane, c'è chi piace e chi no, a me non mi piace, se avrei avuto un posto dove metterli li avrei messi sotto per non vedere neanche i cavi. Ci ha fatto una cosa come già, ci sono un po' così qua questo mobile, però sarei stato più contento qua. Ehi, stavo vedendo infatti sotto lì, sotto le scarpette diciamo, questi cavi rossi e neri un po', vabbè, a me passano dietro, però non sono proprio davanti al baracchino, a vista non sono, ecco qua. E che altro dire? Vabbè, Antonio, allora proseguo in quello che stavo facendo. Poi sento le sferzate qua, porca miseria. Non come ieri notte, poi ieri notte come sentito i primi fulmini, come ho visto i primi lampi, ho detto ho stracciato tutto, computer, poi ho staccata la ciabatta, staccata dalla spina, baracchino, antenna, lo stesso, staccato l'alimentatore dalla presa. Mamma mia, poco di tema. E io la stessa cosa, ne ho attaccato tutto. Sì, perché adesso tocchiamoci le balle, anche se non scende sul palazzo il fulmine, ma scende che sono il palazzo a fianco, è un casino, è come un impulso elettromagnetico, ti frigge tutto quanto, ti frigge, è una cosa deleteria, guarda. Perché non lo so, meno male che c'ho le chiese qua che c'hanno il coso, c'hanno il parafulmine, sennò guai. Ehi, mi chiedo, vabbè, io ho edifici più alti, è vicino, in via Savoia c'è un palazzo che è molto più alto, non so se abbia il parafulmine, però in teoria dovrei essere, come si dice, autoprotetto, cioè se proprio deve cadere in zona, vedere tutti gli edifici più alti, in teoria dovrebbe andare lì, ma poi la sfiga si vede benissimo e insomma, mamma mia. Ok Anto, dai, buon proseguimento di serata e ci sentiamo quando capita. Ciao, buona serata, ciao, ci sentiamo. Avanti. Che avanti? Avanti, chi vuole entrare? Che c'è sul canale 10K? Avanti, chi è? Adesso? Ma poco fa mi hanno detto che andava bene. Ma Intanto quando io ti dico la cosa ti faccio un'osservazione, no, non è che ti faccio un'osservazione, ti dico una cosa, vuol dire che sono attento. Adesso sei quasi a posto, ma poco fa hai un bel sassolo da me, quindi eri agganciato. Cosa ne so, se mi dici quasi, no, non ci siamo nemmeno, perché insomma, perché cioè è staccato tutto, è normale. Vabbè, ognuno può dire quello che vuole, io qua non ti ascolto chiaro, chiaro, la voce è chiara, comunque 5 non te la do, non è bella, c'è qualcosa che non va, non lo so che cosa, questo devi vedere tu, abbassa la potenza della radio, non lo so, comunque non è la modulazione bella che a volte fai sentire, io ti sento sempre male, saturo. Non lo so, sembri anche fuori frequenza, ti ho misurato col K e non sei a 0,75, sei a 74,7, quindi può darsi pure che sia quello, che con i baracchini si senta questa differenza, non lo so. Questa è una radio omologata uscita dalla casa, non ha deducato il radio. Chi quando esci dalla casa non può essere di fittura, non tutte le ciambelle escono col buco. Io col frequenzimetro del K che ti posso garantire che è perfetto perché è stato revisionato da poco e si è a 74.7, punto 70 per farti capire, non si è a 75, a 0,75, si è a 0,74.70. Lì la modulazione è bella, chiara, pulita. Col baracchino evidentemente me ne accorgo di più, non lo so. Se poi nessuno ti dice niente te lo sto dicendo io. Non lo so, Cla, però è sempre la solita, è sempre la solita. No, non lo so. Non so cosa dirti, io questo rilevo, questo ti sto dicendo. Comunque, prendilo come cosa, io ti dico le cose come stanno. La modulazione è chiara, però non è limpida, limpida, limpida. C'è una leggera compressione sotto che te la porti sempre, te la porti sempre, sia da attaccato e da attaccato. Ok, la radio che invece esce bene è quella che c'ha un po' di eco, non lo so, con quella esce bene. Claudio, ma sei in FM? No, io sono in AM, non in FM. Io ti sento meglio in FM che in AM, com'è possibile? Questi saranno problemi tuoi, io a parte l'FM non ne ha più. Pare che un problema verrà dietro. A meno che forse ti sei spostato per sentire meglio Antonio, ho capito, forse è quello. E qua era molto spiccata la cosa, mettendoti in FM di perfetto. Forse ci sei messo indietro, dai. Va bene, continuate, dai, a dopo, ciao. Non so, ho svoltato il Delta Tune, ma non penso che vada anche in trasmissione il Delta Tune del Dati, non lo so. Ciao Gianni, allora mi sono spostato di frequenza indietro, ti sento meglio. Probabilmente va anche in trasmissione, Claudio. Ti sento meglio, eppure sembravi in FM, vabbè, dai, continuate, che io tanto sono, mi devo fare, vai Gianni. Ciao Marconi. Vai Gianni. No, è Gianni, avanti break. Ciao, buonasera. Oh Marco, ciao Claudio, buonasera. Aspetta un attimo Marco, che ce l'ho tutto a destra del tattoo, per sentire bene Antonio, perché io lo sento quasi fuori frequenza, diciamo, nel senso che se mi sposto col Delta Tune lo sento meglio, capito? Poi ho provato col K e in pratica è a 74.70, non è a 75.00, capito? Tutto qua. Lo rimetto com'era, Marco, vediamo un po'. Guarda, tutto a sinistra, così com'è, va meglio? No, sembri FM, non lo so perché. Spostando a sinistra sentivo bene, adesso sei. Vediamo Claudio cosa ne dice che è più distante. Riprendi Claudio di Muro, ti avevo scambiato per Gianni, scusa, buona serata, avanti. Non lo so, questa è la prima cosa che mi dicono con questa radio, non mi ha mai detto niente nessuno, non lo so, vabbè. Sarà un problema di Marco anche questa. Vediamo un po' se ascolti bene. C'era anche Natalino. Ciao Natalino, buonasera. Ottimo segnale, ottima radio. Avanti Antonio, riprendi. K, mi senti Claudio Damuros? Perfettamente bene qua a Sassari. Va bene. Santiago 8, Radio 5. K, io ti sento bene. Dai, io vi devo lasciare e ce la sentiamo alle prossimine, dai, perché devo fare delle commissioni. Ciao, ciao. Saluti a te Claudio Damuros e a te Claudio e a te, a tutti quanti. Tutti quanti in generale, anche a te, Marco. Saluto a tutti, ciao ciao. Ciao Anto, ciao. Ciao Marco Lì. Ciao Anto, dai, ci sentiamo più tardi, alle prossime. Cordialità e saluti. Avanti Marco. Via. Ciao Natalino, ti ho sentito di striscio, ciao Natalino. Marco Lì, ciao. Sì, che Natali ci porta un bel, ma cos'è l'MB più 4 quello? Ehi, la televisione che non è alta, però la becca quella. Ehi, la becca ti copre giù mai la modulazione. Va bene, dai, KK comunque. Sì, Claudio, 9.20, sì, qua, sto andando col DAC. Radio 5 perfetta, dai. Marco è 9.30, come sempre. Nulla, mi ha detto che sono, che sembra un FM, non lo so, no, non c'entra niente, non è vicino a me Marco, non me l'ha mai detto, quindi sicuramente è un problema suo, non so che radio stia usando, questa va perfettamente bene, no, non mi ha mai fatto nessun difetto, non so, non vorrei che, vabbè, la sto usando poco, ma comunque era accesa stamattina, va bene, vuoi riprendere Marco? Sì, in FM è tu adesso. Era per sentirti meglio. Ma strano, secondo me va la radio all'incontrario. Guarda, io sono in cuffia ed è spettacolare la modulazione. Non capisco cosa c'ha quella radio, non lo so. Vabbè, controlla, perché io sono in AM e questa radio sta andando benissimo, non bene, benissimo, perché io mi sto ascoltando in cuffie. Avanti, oh Claudio. Questa è... è mitica, no vabbè, sto usando questa perché da tanto che non la uso, se no io di solito uso sempre il Gatch, il Midland, oggi sto andando con questa, poi magari più tardi faccio girare un po' anche le altre. Sommergibile al forno che l'abbiamo portato a verniciare, quindi almeno sino a domani o a lunedì non si può toccare perché la vernice è fresca, altrimenti è un casino. Lo sai qual è il sommergibile? Sì, quella che stavo parlando ieri notte. Intanto mi sono sistemato la microcornetta, il cavo, tutto, insomma adesso è diventata molto ma molto più bella, molto più presentabile. Purtroppo il verde, quello proprio originale non c'era, questo è un verde militare però è molto più chiaro. Non lo so, adesso la facciamo asciugare e vediamo, se no le cambio le do un altro colore, non lo so, vediamo. Allora, adesso bisogna che asciughi, poi vediamo, comunque. È fuori nel poggiolo che sta asciugando, quindi sino a domani, dopodomani non si può toccare, altrimenti le fai tutte le impronte. Avanti Marco, a te ancora, controllati con la radio perché ti ripeto, io sono in AM e sembra che no, che non ci sia nessun difetto in questa radio. Evidentemente sta cambiando radio, dai, va bene. No, beh, il 430 a me non mi stai sentendo, da tanto che non lo uso il 430 perché ce l'ho con di polo a 5 bande ancora, lì, da una parte, che giusto per ascoltare, non c'è manco microfono, figurati, giusto per stare un po' in ascolto in bande amatoriali, e basta, ma non c'è manco microfono, tra l'altro non posso manco andare in on air perché non c'è manco correttore, quindi praticamente sono fuori dai giochi, ma queste sono mie decisioni. Quello che senti è il 140, i 140 uso a volte, ma anche quello adesso lo sto usando poco, sto usando più i baracchini a te. Sì, me l'ha fatto mia figlia, tra l'altro era anche in pigiama, con la microcornetta, infatti chiamavo qua tutte le volanti del canale 10, alla caccia, andate alla caccia di fulmini e tuoni, sugli temporali lì, ha fatto un